14. Erano arrivati una mattina di giugno, dopo un giorno di marcia e una notte in riva al fiume. La gente di una villa s'era rifugiata in chiesa, pregando che se ne andassero in fretta. Sulla porta s'era fatto avanti il reverendo per dare il benvenuto nella casa del Signore. Joseph lo conosceva, uno di quei bianchi che, a sentir parlare di indiani, si carezzano lo scalpo e brandiscono la croce. Senza bisogno di scomodare Dio, i volontari erano ripartiti prima di sera, con una decina di vacche, 3 pecore e un sacco a testa di legumi e carne secca. La milizia ribelle non s'era fatta vedere. Una settimana dopo, molte fattorie della zona erano già abbandonate. I coloni scappavano a Cherry Valley, a German Flats e ad Albany, per supplicare generali e colonnelli di non lasciarli soli, alla mercé degli indiani. Nicholas Herkimer s'era offerto di aiutarli. Aveva mandato un messaggio a Joseph per chiedere un incontro, in nome della loro antica amicizia, a una villa, per la metà del mese. Sotto i raggi bollenti che sapevano d'estate, Daniel Secord si incamminò sulle zolle. Il campo di alfalfa separava i volontari dalla milizia di Trion. Chi li aveva visti scendere lungo la sponda del Susquehanna parlava di almeno 300 armati. Il generale gli venne incontro a cavallo, spalleggiato da 5 uomini, e si fermò ad aspettare nel verde, al centro esatto dell'appezzamento. Secord sentì l'odore del tabacco macerato nello scotch e pensò che solo un pazzo poteva fumare la pipa con quel sole in testa. «Il capitano Brandt vi manda i suoi saluti e chiede di conoscere il motivo dell'incontro». Herkimer tirò una lunga boccata e svuotò la pipa, battendola contro la sella. «Siamo da sempre buoni amici», rispose. «Dicono che ha parlato con Re Giorgio e Lord Germain. Mi piacerebbe sentire che idea si è fatto della causa delle colonie». «E i vostri miliziani? Anche loro vogliono parlare col capitano? Sarà un colloquio lungo?» «Sarà un colloquio amichevole», ribatté il generale. «Avete la mia parola». «Molto bene. Tornerò tra un'ora con la risposta alle vostre domande. Avete altro da chiedere?» L'indice di Herkimer rimase come incastrato nel fornello della pipa, mentre pressava il tabacco. «Volete dire che il capitano Brandt non ha intenzione di incontrarmi?» «Voglio dire, signore, che un incontro con 300 uomini armati non è un colloquio amichevole, si chiama battaglia. Se è questo il genere di riunione che avete in mente, siamo pronti ad accontentarvi». Questa volta il generale parve non sentire. Finì di caricare la pipa e la portò alla bocca, senza accenderla. «Riferite al vostro capitano che farò costruire un riparo in questo punto preciso. Sarò qui domattina con 5 uomini disarmati. Col caldo che fa, sono certo che il capitano Brandt non vorrà farmi aspettare invano». Chiacchiere di indiano, la merce più svalutata che ci fosse sulla piazza. Herkimer voleva portarsene a casa 100 libbre. «Ditemi se sbaglio», disse Jonas Klug, mentre scorticava un ramo a colpi di coltello. «Non abbiamo fatto tanta strada per ascoltare un selvaggio». «Giusto», rispose la bocca di Reinhard, affiorando dal buio. «Oltretutto, so pure cosa dirà. Ci scommetterei $1 spagnolo. «Sono d'accordo con voi, signori. Forse insieme possiamo convincere il generale». «Il generale non cambierà idea, capitano Neumann. Lui per le parole ci va matto». Con un movimento brusco, il coltello del tedesco tagliò il ramo in 2. La parte recisa atterrò nel fuoco e prese a consumarsi nelle fiamme. «Se volete il mio parere, l'unica cosa che conta è avere lo scalpo di Joseph Brandt. Il resto è fatica sprecata». L'oscurità inghiottiva i volti. Sembrò fare lo stesso con le parole. «Se si combatterà, vi lasceremo l'onore», commentò Neumann. «E che bisogno c'è di combattere? Se io stessi nella delegazione, domani risolverei il problema una volta per tutte». Klug strinse la lama per la punta, soppesò il coltello e lo mandò a conficcarsi in mezzo ai piedi di Reinhard. Fu ancora il capitano Neumann a parlare per primo. «Se mi dite che Joseph Brandt è un pericolo da eliminare, sono con voi, ma uccidere un uomo a tradimento è un disonore». «Un uomo? Un selvaggio, dico io! Pensate a quanta miseria, distruzione e morte risparmiereste al popolo americano. E anche se trattasse di un bianco, che patriota siete se preferite il vostro onore al bene della nazione?» Una pigna atterrò nel fuoco e sollevò uno zampillo di braci. «Ha ragione lui», commentò Reinhard. Se un grande sbaglio porta grandi vantaggi, non è più uno sbaglio. Herkimer e il suo amico indiano parleranno, rispose Klug. Poi torneremo a German Flats e un giorno ci diranno che Josef Brandt ha scorticato viva la gente di una villa. Quel giorno verrò a chiedervi come vi sentite, capitano Neumann. L'uomo rovistava la sabbia con la punta dello stivale, schiacciò uno scarafaggio che tentava di riemergere e sollevò la testa. Che pensate di fare? Levare di mezzo l'indiano? Che altro? Mi offrirei io, ma la mia mira non è all'altezza. C'è bisogno di qualcuno capace di tirare lungo e preciso. Quando Brandt si va avanti, bang, il problema è risolto una volta per tutte. Per una cosa del genere si rischia la forca. Fossi in voi, starei attento. Klug si guardò intorno. Perché? State dicendo che ci sono spie qui? State attento voi piuttosto. Calò un silenzio freddo. Calma, signori, mai visto nessuno finire sulla forca per aver accoppato un indiano, proclamò alla fine Reinhard nella pausa tra i due sputi. Ce n'è parecchi che gli darebbero una medaglia a chi fa fuori il selvaggio che ha incontrato il re. Un brusio di approvazione corse attorno al fuoco. Ho sentito molti vantarsi di essere il miglior cacciatore di German Flat, della valle, dell'intera colonia. Klug si alzò in piedi. Non c'è nessuno che ha voglia di dimostrarlo? Nessuno si fa avanti? Tu, Keller, oppure tu, Rumsfeld? L'ultimo chiamato in causa deglutì, poi fece un cenno col capo. Ci penso io. Klug sorrise. D'accordo allora. Siamo tutti della partita? Il silenzio ristagnò. Gli uomini soppesarono le parole appena udite. A uno si dichiararono. Bene, signori, ora dormiremo il sonno dei giusti. Dolore. Dolore alle costole. Erano calci, capì Klug. Lo stavano svegliando a calci. E ci voleva molto poco per svegliarsi a quel modo. Il cuore gli balzò in gola. Fece per mettersi a sedere, ma sentì la suola di uno stivale premere sul petto. Mise a fuoco. Una baionetta. Proseguiva in un fucile e in un miliziano che sembrava divertirsi un mondo. Klug girò gli occhi attorno. Anche Rumsfeld e Keller subivano lo stesso trattamento. Anche Reinhard. Spalleggiato dalle sue guardie, Herkimer lo fissava. Sul volto era dipinto disgusto, più che rabbia. «Dovrei farvi impiccare per sedizione, signori, ma mi riterrò soddisfatto con molto meno. Tu, Rumsfeld, 15 nerbate. Klug ne avrà 10. Gli altri se la cavano con 9. Poi ve ne tornate a casa. Non attraversate più la mia strada». Il fumo della pipa rotolava denso contro la tettoia. Gli uomini grondavano sudore e polvere. Il generale Herkimer teneva una Bibbia aperta sulle ginocchia e rileggeva le stesse 4 righe. Non era l'impazienza a distrarlo, né la preoccupazione per quel che avrebbe detto. L'incontro era l'ultimo atto di un cerimoniale. Il significato stava nel gesto, non nelle parole. Finché un patriota americano avesse fatto 100 miglia per discutere con un indiano lealista, il tempo dei massacri non sarebbe arrivato. Una schiera di nubi inseguiva il sole, quando Josef Brandt uscì allo scoperto attorniato dai suoi. Herkimer ripose la Bibbia, si alzò e li fece accomodare. Gli uomini del seguito sedettero su due panche disposte a mezzaluna. Brandt rifiutò la sedia da campo e rimase in piedi. Alle sue spalle, il più vecchio dei fratelli Hug stirò un sorriso di sufficienza e diede di gomito a Daniel Secord. Josef Brandt salutò i presenti e fissò Herkimer. «Il vostro coraggio è ammirevole, signore. Sapete bene che potrei spazzarvi via con un gesto. Le mie forze sono in sovrannumero». Fece una pausa retorica in modo che le parole si stampassero bene nella mente dei convenuti. Poi proseguì. «Ho dovuto faticare non poco per trattenere i miei guerrieri. Ho dovuto dir loro che voi, signore, siete un vecchio amico e che tra i vostri ci sono vecchie conoscenze e compagni di scuola. Per questo mi accontenterò di una dozzina di vacche come offerta di pace e del ritiro immediato delle vostre truppe». Herkimer fece un cenno con la mano per zittire i suoi. «È una bella fortuna avere amici come voi, signor Brandt. In ogni caso, vorrei verificare di persona le condizioni della gente di una villa». «Non se ne parla, signore. Ricordate che siamo in guerra e non l'abbiamo voluto noi. Ritenetevi fortunato di non essere condotto a una villa in catene». Herkimer annuì, senza distogliere gli occhi da quelli dell'indiano. «Come volete, signor Brandt. Vi ammonisco, però. Non lasciate che si commettano atrocità in questa guerra. Non saranno tollerate». «Stavo per dirvi la stessa cosa. Il colloquio è finito. La prossima volta che ci incontreremo non sarà per parlare.